Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Ci è voluta quasi tutta la notte, ma alla fine il governo ha dato il via libera al decreto semplificazioni che dovrebbe toccare gli appalti, l'edilizia in genere, le imprese e i dipendenti pubblici. Le differenze di vedute che hanno animato la maggioranza però non si placano. Sul piatto c'è il MES, il quale si porta dietro il grande tema dei nostri rapporti con l'Europa. E c'è la questione della concessione ad Autostrade che dopo mesi di rinvii appare ineludibile. Su entrambe le visioni di PD e 5 Stelle sono diverse, su entrambe si cerca una composizione che, come sapete, non è facile. Come se il Covid non ci fosse più. Invece c'è, tanto che il presidente veneto Zaia vara multe salate per chi viola l'isolamento fiduciario e torna a proporre il ricovero coatto per chi rifiuta la quarantena. C'è, tanto che il presidente brasiliano Bolsonaro, negazionista del virus o quasi, presenta sintomi in un paese che conta ormai oltre 1,5 milioni di casi e solo ieri 620 morti. Il tutto mentre ieri non avevamo che occhi e soprattutto orecchie per ricordare un vero genio che se n'è andato, Ennio Morricone. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:33 minuti di martedì 7 luglio. E ci siamo, con Carmelo Lauricella in regia, Miriam Lucchetti in assistenza, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione. E la nostra Gloria Guerrera, che in questi giorni si è presa qualche giorno di pausa. Dai, Gloria, dai. Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E voi, ovviamente, 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. Fatevi sentire, scrivete anche SMS, WhatsApp, quello che volete, come sempre. Da cosa iniziare oggi? Vi piacerà, vi potrà piacere o non vi potrà piacere il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, eh? Come sapete, a volte la sua retorica diverte, altri la trovano insopportabile. Però, direi che questi due passaggi che vi faccio sentire adesso, secondo me, rappresentano abbastanza bene il quadro. Sentiamolo, va. La percezione che ho io è un po' questa. Noi per 2 o 3 mesi abbiamo avuto la sensazione di potere e dovere cambiare le gerarchie di valori nel nostro paese, la qualità della politica, delle istituzioni. La sensazione che ho oggi è che abbiamo retto giusto 3 mesi, poi abbiamo ricominciato a riacquisire i vecchi vizi dell'Italia, di balcanizzazione, di pollaio permanente. Ed eccolo qua De Luca, mette, mi pare, il dito nella piaga. Non abbiamo fatto in tempo a uscire da questa emergenza e da questa situazione dalla quale non siamo, come è evidente, completamente usciti, che siamo tornati a fare quello che facciamo prima. Una politica di litigio, di scontro. Una politica che De Luca definisce la politica del fare finta. Mezzo mezzo, c'è un paese che non decide mai fino in fondo e con chiarezza, e fare finta. Un paese che non fa mai la verifica sui risultati delle cose che propone. Fare finta. Sul piano finanziario, sul piano istituzionale, sul tema della sicurezza, facciamo finta. Non lo so se ce la faremo a liberarci di questi vizi. Mai sentito così pessimista, De Luca, mai sentito così pessimista. Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage, che ti pare di questo De Luca? Buongiorno, ciao. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Ma la sensazione, facciamo una piccola premessa: De Luca in campagna elettorale. Certo. De Luca ha bisogno, diciamo, di costruirsi una visibilità costante e quotidiana, e sta usando, come molti governatori e sindaci, diciamo, questa emergenza del coronavirus per fare una sorta di tribuna quotidiana. In questa tribuna De Luca non risponde alle domande dei giornalisti ormai da mesi. Diciamo che i brutti vizi della politica che abbiamo accumulato col coronavirus, inseriamo pure questo, dei politici che non rispondono più alle domande ma che si limitano a fare monologhi, e sì, pensa che peraltro, diciamo, abbiamo semplicemente accelerato un po' come lo smart working. E diciamo anche che la politica del fare finta, la politica del attaccare gli altri c'è anche perché due dei principali focolai di questa, diciamo, ondata uno e mezzo, sì, di coronavirus sono avvenuti in Campania: Mondragone, certo, l'isolamento di altre 17 persone, e Serino in Irpinia, che è, diciamo, il nuovo focolaio emergente. Curiosità, sì, ma, teniamola là. Zaia e De Luca, i due governatori che si erano guadagnati gli allori migliori durante la gestione, sono quelli che si stanno, diciamo, un attimino, stanno avendo questa recrudescenza del coronavirus, questi nuovi piccoli focolai, sì, prevalentemente familiari, anche Zingaretti nel Lazio. Sì, sì, sì, sì. Aggiungiamoci anche, sì, le Bonaccini in Emilia Romagna. Diciamo che i piccoli problemi di questa fase, piccoli rispetto a Bergamo, Brescia, Alzano, Nembro, Codogno, Casale, stanno soprattutto in queste regioni che non a caso sono quelle, cioè non a caso, ma casualmente, il contrario, sì, sono quelle in cui i governatori, sì, diciamo, erano stati sugli allori nella prima fase. Sì, sì, a parte il Lazio, perché come i nostri ascoltatori sanno, ed è diventato un piccolo tema politico questo, i nostri ascoltatori lo sanno, ieri c'era la classifica del Sole 24 Ore, la famosa governance poll, che cos'è? Quella che misura il gradimento dei presidenti di regione e dei sindaci, e tra i presidenti di regione Nicola Zingaretti risultava all'ultimo posto con il 31%. A proposito di focolai veneti, Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, sentiamola, va. Era prevedibile perché il virus c'è, come continuiamo a ripetere, il virus non è scomparso, è in circolo, non è indebolito, continua a contagiare. Quindi sta a noi la capacità di rispondere in maniera adeguata alla sua ricomparsa, e finora questo è stato possibile, è stato fatto, quindi questi contagi sono stati identificati rapidamente, i focolai sono stati messi in protezione, diciamo, sono stati circoscritti. È così, un ascoltatore la mette giù molto cattiva, dice: il virus per i politici è stato come il terremoto per i costruttori, rievocando, insomma, momenti, se vogliamo, forse anche le inchieste dell'Aquila addirittura, non lo so se è stato così. Alcuni l'hanno gestita bene, abbiamo detto fin dall'inizio, alcuni l'hanno gestita bene, altri l'hanno gestita male, ma soprattutto le somme non siamo in grado di tirarle adesso, cioè siamo in grado di tirarle adesso solamente in parte, solamente per alcune questioni localizzate, perché, lo ripetiamo ancora una volta, ma senza far del terrorismo non è finita. Tutti i virologi, tutti gli immunologi, gli infettivologi e tutti gli ologi che volete ci hanno avvertito fin dall'inizio: attenzione, quando allenteremo il lockdown ci sarà qualche piccolo focolaio che sorgerà, misureremo il tutto dalla nostra capacità di isolarli, e soprattutto misureremo come vanno le cose dall'andamento aumento delle terapie intensive, perché se c'è una cosa che abbiamo visto è che questa crisi sanitaria è stata una crisi da terapie intensive fondamentalmente, insomma non solamente da virus ma da terapie intensive e poi naturalmente da gestione. Pensate solamente alla questione delle residenze sanitarie per anziani, delle residenze per anziani, che è un problema che si è avuto in tutta Europa, chiariamolo per bene questo, non c'è stato solamente in Italia questo problema delle residenze per anziani, però c'è stata anche una questione ovviamente di gestione. Questioni politiche. Questa notte è stato approvato questo decreto semplificazioni, l'obiettivo del governo. Non so, Francesco, se sei riuscito tu a dare un'occhiata. Il comunicato stampa, considerate, è arrivato alle 5 di questa mattina, anche se c'era già un discreto, c'erano discrete indiscrezioni sui quotidiani. Che idea ti sei fatto, Francesco? Intanto devo dire che a me è arrivato grazie a un prod SMS di Simone Spezia alle 5.20, quindi applausi al conduttore. La sensazione che mi sono fatto è chiara, che il grosso del provvedimento è legato al tema degli appalti, e qui bisognerà vedere PD 5 Stelle come lo gestiranno. C'è sicuramente un punto di svolta importante: siamo passati dal codice degli appalti, diciamo molto molto rigido, a una lotta alla corruzione nel mondo degli appalti che aveva anche un po' aumentato la burocrazia, ingessato i lavori, a una, possiamo definirla quasi deregulation del sistema. Nel senso per quanto Francesco, il regime provvisorio è tutto, è previsto mi pare fino al 31 luglio del 2021, esattamente fino al 31 luglio del 2021, cioè la deregulation vera e propria fino al 31 luglio del 2021, quasi a scavallare l'emergenza economica. Prego. Sì, tu sai benissimo che le cose più definitive in Italia sono quelle provvisorie, ma il punto centrale è proprio che gli appalti, la soglia del sottosoglia, no? Dove gli appalti vengono affidati direttamente, sale a 150.000 euro, che sopra quella cifra abbiamo anche qui delle procedure che non prevedono la gara, che i ricorsi, e questa sono cose anche giuste da un certo punto di vista, che se c'è un ricorso questo non prevede il blocco della costruzione dell'opera, che c'è delle procedure velocizzate per la demolizione e la ricostruzione. È chiaro che noi in Italia facciamo sempre i conti con questo pendolo, cioè quando rendiamo troppo lasche le regole sembra che favoriamo la criminalità organizzata e la corruzione, quando le rendiamo troppo rigide è il dominio della burocrazia e della incapacità di fare. Il tema vero è che dobbiamo avere equilibrio tra queste due. E che non è facile, parliamoci chiaro, non è facile da trovare. Adesso io non so come sarà questo provvedimento, poi alle 8.20 avremo ospite la persona che in Italia forse se ne intende di più di queste cose, che è Sabino Cassese, ci faremo dire un po' come la vede lui, come vede queste prime indicazioni che arrivano sui provvedimenti. Però questo equilibrio non è mai facile da trovare, perché poi appunto quando varie norme di questo genere, cioè il primo pensiero mio, che sono abbastanza favorevole di base a una deregulation perché vedo che le opere non procedono, quando ho visto affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore ai 150.000 euro l'ho guardato e ho detto tra me e me: bah, chissà che cosa succederà nelle amministrazioni periferiche con gli appalti a rischio di affidamento ad amici degli amici e cose di questo genere, anche senza non necessariamente con le tangenti, no? Ma semplicemente in un paese di 5.000 abitanti nel quale ci si conosce tutti, no? Alla fine rischi che il favore all'amico lo fai. Ecco, questo il rischio anche su questo fronte c'è, però insomma, l'equilibrio va trovato, Francesco, no? Ma anche sopra i 150.000 non ci sono le gare. Sì, no, certo. Quello che dici tu è giustissimo, nel senso che è evidente che quello che paventi potrebbe succedere, e uso condizionale diciamo perché sono le 6.45 del mattino, dobbiamo ancora digerire bene il provvedimento, ma sappiamo bene che succederà tutto questo, ci vorrà un ulteriore rinforzo dell'attività giudiziaria. Il rischio è che poi questa cosa non semplifichi nulla, nel senso che partiranno decine, centinaia di inchieste successive no? Sì. All'affidamento di un certamente che, sì, che intaseranno i tribunali creando ulteriore burocrazia. Esatto. Oddio, poi in Italia, non se ne esce mai. Oh, vi segnalo cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che c'è anche un mito assoluto: la digitalizzazione della pubblica amministrazione nel provvedimento. Quante volte l'abbiamo sentita, traffico? Manca molto, c'è sempre più code, siamo fermi al numero 2. Il contapersone ora è a posto. Che fortuna aver avuto un elettricista in coda. Ora su ritorni pure in fila, ma occhio al metro di distanza. Un vero professionista non smette mai di esserlo, soprattutto in momenti come questi. Come Fiat Professional, che ti offre sulla gamma anticipo zero e primo canone a gennaio 2021 da 141 euro al mese. TAN 1,99, tasso leasing 2,08. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 luglio. Info su fiatprofessional.it. Fiat Professional, professionisti come te. Mattino. Beh, può darsi che De Luca abbia bisogno di visibilità, quello che mi pare, però di sicuro ha detto delle cose vere, cioè, purtroppo è così. Qui sono ormai 50 anni che abbiamo il peggio che può esprimere l'Italia al governo. Boh, adesso non la metterei giù così dura, francamente. Risponde invece un altro ascoltatore, ci manda un WhatsApp, dice un po': quelle dichiarazioni di De Luca sulla politica che torna a pollaio sono un po' un tanto al chilo. Sì, c'è anche questo elemento, come diceva semplicemente Francesco Cancellato, insomma, è in campagna elettorale Vincenzo De Luca, anche lui è in campagna elettorale. Cosa ancora di questa giornata un po' sparsa, nella quale ci sono alcuni elementi interessanti, come si diceva, che hanno a che fare con Covid, che hanno a che fare con il decreto varato questa notte, con le semplificazioni, che hanno a che fare con, a proposito, abbiamo detto, digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ma perché non si riesce a fare? Avranno qualcosa a che fare con questo i dati che sono pubblicati oggi al Sole 24 Ore e che trovate anche su altri giornali, ma il Sole 24 Ore decide di farci l'apertura, secondo i quali mezzo milione di dipendenti pubblici a 62 anni, eh? Beh, ci sarà anche un elemento di questo tipo che gioca. Un ascoltatore sul tema degli appalti dice: non voglio pensare cosa succederà nelle ASL con la deregulation degli appalti. Che vi devo dire, però in qualche modo bisogna fare. Cosa abbiamo ancora, vi dicevo, dalla giornata di ieri? Di politico sicuramente un po' di opposizione. Matteo Salvini, al quale gli chiedono: vuole fare il sindaco di Milano? Risponde così: prima vado al governo e poi ci penso. Sindaco di Milano, ho detto, se il buon Dio mi darà una vita non lunga ma normale e serena, prima torno al governo di questo paese, sistemo alcune cose e poi chiudo in bellezza come sindaco, se i milanesi vorranno, però c'è tempo. E poi questa fissazione, chiedo scusa, è un po', mi è venuta male, però diciamo sul MES, sul Fondo Salva Stati. Sul MES sono soldi a prestito, a debito, da restituire a precise condizioni imposte dal Lussemburgo, perché la sede del MES in Lussemburgo, sono soldi rifiutati da tutti i paesi europei, o sono fessi tutti gli altri o c'è qualcuno in malafede al governo in Italia, perché siamo gli unici che stanno discutendo del MES, gli altri stanno facendo meglio di noi con i loro soldi. Oh, lo ribadiamo ancora una volta su questo fronte, perché l'abbiamo fatto anche ieri in trasmissione, avevamo ospite il vice segretario della Lega Lorenzo Fontana, il quale ci ha detto la stessa cosa. L'obiezione è stata questa: gli altri paesi non ne hanno bisogno perché si finanziano sul mercato a tassi più bassi, per loro non è conveniente il MES dal punto di vista proprio dei tassi di interesse. Tutto questo tranne la Grecia, che però sta uscendo da un programma appunto di con il Fondo Salva Stati nel suo uso tradizionale, e Cipro, insomma, ragazzi, di che parliamo? Poi ci si può ragionare, però la pregiudiziale sul MES, questo è il problema, cioè il non ragionarci nemmeno intorno, però mi è chiaro ed è chiaro a tutti, Francesco Cancellato, che è una questione politica, tanto per la Lega quanto per il Movimento 5 Stelle. Cioè, ormai è diventata una bandiera. Se si chiamasse Pippo e non si chiamasse MES, probabilmente sarebbero pronti a dire sì. No, ma c'è un punto, secondo me, tecnico su cui Salvini sbaglia. Salvini dice: i soldi del MES sono presi a prestito dal Lussemburgo, a parte il fatto questa cosa del Lussemburgo che è messa lì per indignare, non si sa bene perché, ma il punto vero è che gli altri soldi, i famosi soldi nostri, sono soldi che prendiamo a debito, come dici tu, a interessi più alti. Ed è curioso che chi, come la Lega, diciamo, parla dalla sera alla mattina di debito senza limiti, di andare tranquillamente al debito che va al 200% del PIL, perché tanto lo fa anche il Giappone e gli stati non falliscono e il debito non è un fardello per le nuove generazioni e tutta questa retorica pro debito, che contemporaneamente, quando gli viene offerto un debito a tassi più bassi, senza condizionalità, esattamente diciamo come il debito che tu negozi sul mercato, ma molto più conveniente, dicano di no semplicemente perché ci sono le 12 stelline della Unione Europea in filigrana. Ecco, questo lo trovo francamente assurdo. Il MES serve ad avere un debito a tassi inferiori per i paesi che non ce la fanno ad averlo sul mercato. Quello è l'obiettivo politico del MES, da prima delle cose che fanno. Allora, questo è il vero punto. Sì. Ci sarà modo comunque di continuare a parlare, perché se ne continuerà a parlare. Guardate, è un punto anche dirimente delle questioni interne all'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle. Cosa ancora? Molto rapidamente ne sentiamo solamente un passaggio di queste testimonianze dei lavoratori dell'hotel di Ischia mandate ieri in onda da Porro, che dicono il giudice Esposito, quello di Cassazione, che decise sostanzialmente su Silvio Berlusconi e sulla condanna. Quando era in questo hotel nostro a fare le vacanze, parlava malissimo di Berlusconi. Anche su queste testimonianze si basa il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo della difesa di Berlusconi. Ovviamente la cosa sta facendo molto discutere dopo le rivelazioni dei giorni scorsi, le registrazioni dell'altro giudice. Sentiamo un passaggio di questo. Era un nostro abituale inglese. Ha detto che io, un operaio, essendo un operaio, mi ero schierato con un partito di padroni. Quindi, e alludeva al... Insomma, questi sono i racconti. Da dire che l'hotel nel quale lavorano queste tre persone è di proprietà di un senatore di Forza Italia. Quindi, insomma, poi... Tutto va messo in equilibrio. Fatemi chiudere con Ennio Morricone, no? Ragazzi, con Ennio Morricone chiudiamo. Innanzitutto un passaggio della voce di Giorgio Assumma, l'avvocato, che legge il necrologio scritto da lui stesso, da Ennio Morricone. Io, Ennio Morricone, sono morto. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino ed anche a quelli un po' lontani che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti, ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della mia vita. I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te? Io avrei puntato tutto su te. E avresti perso. Sono triste, caro Carmelo Lauricella, non solo per la scomparsa di Ennio Morricone, ma perché dobbiamo chiudere. Questa me la sentirei fino alla fine.